appunto dello spray. Ho un profumo gradevolissimo e disintersivo. A me piace dire il profumo della pelle, ma quello buono, il balsamo. Viva Pratesi, viva Pratesi, viva Pratesi. Arrivederci. Arrivederci. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Dimmi Carmine, dimmi. Ecco. Buonasera, io sono quello di WhatsApp. Vabbè, Carmine, dimmi. Manda tanti, però, signor Carmine. Vabbè, dimmi. Non so, io ormai confondo. Dimmi. Giuseppe, siamo massacrati però con questa trasmissione. Parliamo un poco di pelo, un poco di figa, un poco di mignotte. No, Carmine. Questo chi è? Un alunno di Zagrebelsky, questo professore? Io sera quando torno a lavorare, Giuseppe, c'è io... Sì, però ho capito. È un alunno del professor Ricolfi, questo qui. Chi è questo qua? Però c'è un... Ho capito, Carmine, dammi un po' di tempo. Entriamo nel vivo dopo di alcune cose, di alcuni argomenti. E dopo, Giuseppe, io adesso... Ma che fai tu, Carmine? Che fai? Il camionista, che fai? No, ma che camionista, faccio il rappresentante. Il rappresentante, sì, viaggi ma sempre. Ma non è importante il lavoro che faccio, è importante che si parla di femmine, di Ho capito, Carmine, ma non è che si può parlare sempre di femmine, siamo ridotti male. Che parlavo? Parliamo ogni tanto di politica, ogni tanto di qualche argomento. È cresciuto alla scuola di Angelo Panebianco. Vabbè, ma ho capito, ma lascialo perdere. Io però posso dire una cosa a parenti, non è che fa un moralista, cioè... Io lo voglio bene, lo ascolto da sempre, però dice che siamo animali, che siamo esseri ignobili. No, tu dice che sei perché tu vai a puttane? Certo. Sempre fisso. È normale. Sempre, una volta al mese. Miserabile. Una volta al mese in Austria, una volta al mese. È certo. Normale. È certo. No, ma per carità. Scusa, cosa sta dicendo di sbagliato, Carmine? Ma qual è il problema? Io vorrei dire a Parenzo, cioè, tu dimmi una cosa, ma cioè, qual è? Devo andare in chiesa? Devo andare a pregare? Ragazzi, questa è l'unica trasmissione al mondo in cui si fa passare per normale dicendo anche... No. E certo, comportamenti che ovunque hanno un minimo di riprovazione sociale. Ovunque. Ma dove? Qual è normale? Però ma se vi fa comodo così far passare me per un chirichetto, andate a fare in culo. Perché nel mondo normale, Carmine che telefona all'800-024-0024 si presenta e dice sono quello di WhatsApp, Giuseppe. Già uno deve capire. È uno deve capire che cazzo è quello di WhatsApp. E poi in più aggiunge, io sono uno che va regolarmente a prostitute, è certo, e fa passare me per strano, ragazzi miei, non è un mondo normale questo, io ve lo dico. Ma non è normale quando uno va a Froci. Se vado a Froci, allora non sarei normale. Cresciuto alla scuola. Alla scuola. Ma quelle stanno lì che ti aspettano. Ma chi? Le prostitute. Le prostitute chiamano. Tutte chi? Quelle che stanno per strada, quelle che stanno... Lei ha una moglie, una fidanzata? Tu cammini, tu cammini. Tu non ti preoccupare, la fidanzata. Io sono stato sposato, tu non ti preoccupare. Questi sono dettagli. Benissimo. Allora, tu devi pensare... Ma adesso ha una relazione stabile con qualcuno? A volte cammini per strada? Tua, non ti preoccupare, adesso sto parlando di un'altra cosa. Tu professor Carmine, professore. Professore assoluto, professore totale. Allora, dimmi. Allora, cammini per strada? Per strada a volte, Giuseppe, passi sulla Laurentina, sulla Casillina, sulla Salaria, vedi ragazze bellissime. Sfruttate quelle sulla Salaria. Ma sfruttate sta minchia, ma sfruttate di chi? Ma mica ce l'ho messa io là. Ma che sta dicendo questo? E lui le usa. Allora che stai dicendo? Vedi questa ragazza? Ma io li vedo. Allora quando tu li vedi che cammini per lì, poi adesso con sto caldo si iniziano a mettere queste minigonne pazzesche. Vedi lì che quasi tu passi e ti chiamano, come di dire, fermati 5 minuti. Sì, ma non è che fermano te perché sei bello, perché ti schifano solo anche a te. Sono bello, non sono racchio come te. Carmine. Vabbè, comunque tu appena le vedi sembra una foto su WhatsApp, cioè qual è il problema? Sembra prendere il numero della sembra che chiamino, no? Sembra che chiamino, no? Sembra che ti chiamano, Giuseppe. Sì, beh, cioè, ti chiamano perché vogliono i soldi, però non è che chiamano perché chiamano. Carmine, è arrivato Carmine. Mamma mia, è arrivato Carmine, viva e viva. Ma scusa un attimo, è normale, tu passi, loro ti chiamano, le vedi belle, sicuramente saranno pure profumate, perché non è che stanno... Ma lo saprai se vai, se ma... ci vai, no? Tu, perché tu vai in Austria. Certo, è normale. Ah, Giuseppe, è il top, è il top. Dove, cos'è il top? Dimmi, cos'è? Andiamo, è il top. Poi c'è Welcome, che... L'andiamo, sì, locale che siamo andiamo, poi c'è Welcome. L'andiamo, sì. L'andiamo, il Welcome. Sì. Poi c'è Welcome, che barbiere, sta dentro, ma che è leggermente sotto, però... Di livello, dici. Ma andiamo insieme una volta, Carmine. Andiamo insieme, organizziamo una cosa insieme. Ma quando te pare, Giuseppe, io sono stato ma che bella compagnia di amici. Ma quando te pare, una volta al mese vado, io parto e vado sempre, senza problemi. Ma scusa, ma non mi dico come... io vado sempre. Ma dove abiti tu, Carmine? Scusami. A Roma. E come fai? Ogni volta pigli una volta al mese e vai in Austria con la macchina, e così? Sì, ma non è un problema. No, non c'è nessun problema. C'è chi va a vedere una mostra di Hayez e chi invece va, ovviamente. Tu vai a vedere le mostre, chi va Carmine? Alla scuderia del Quirinale. Che mi interessa le mostre, giusto, i quadri, Manzoni, Raffaello, Pirandello. Manzoni... Ma che mi interessa? No, Manzoni e Pirandello però non hanno esposto quadri. Non mi interessa, non ma io ti sto dicendo, io ti faccio esempi, a me non mi interessa. A me che apre nei musei vaticani a Roma, è 20 anni che sto qui, non ci sono mai andato. Cioè a me andare a vedere macerie, un Colosseo, quattro muri, là. Le chiama macerie, Carmine. La gente d'accordo. Arrivano là, le macchine fotografiche, tu vedi tutte la macchina fotografica. Sì. Ma chi e invece è normale andare a Troia sulla Salaria. Vabbè, ma che fotografo? Cioè, ma che cosa c'è da andare a vedere là? Milioni di persone al mondo che vengono qui per fotografare il Colosseo! Arriva sto stronzo di Carmine da Roma che ci fa passare per normale, che invece bisogna andare a prostitute. Ma guarda che è un mondo bello strano, deficiente. Ma sono deficiente, perché offendi? Ma secondo lei perché fotografano il Colosseo? Ho sbagliato, Carmine, scusi, infatti le chiedo scusa perché sono stato eccessivo, Carmine. Ma tu mi dici stronzo perché ci conosciamo. No, è vero, non sei uno stronzo. Io non no. ti chiedo scusa. È vero, sei anche tu una creatura di Dio. Ti chiedo scusa, infatti. Una creatura venuta molto male, ma pur sempre una creatura di Dio. Allora, ti chiedo scusa. Aspetta, però, voglio dire solo questo. Carmine, scusa. Creatura di Dio venuta male, ma creatura di Dio, ascoltami. In questo momento. Molto male. Sei tu che sei venuto male, non io. Allora, in questo momento. In questo momento, al Quirinale, il presidente della Repubblica Mattarella sta ricevendo Squinzi e il presidente Bocci. È un handicappato, ma la cosa che più mi terrorizza è questa, perché al Quirinale in questo momento c'è questo passaggio simbolico di consegne tra l'ex presidente e il presidente Boccia. Non gli interessa. Secondo me bevendo a un certo punto stanno Il pelo che mi sa drizza tutto, bello, carino, mamma mia. Secondo me in questo momento a un certo punto il presidente Mattarella ha detto comunque vi volevo ringraziare perché avete un bel giornale e c'è una straordinaria radio e probabilmente i due presidenti hanno detto presidente, ci farebbe molto piacere farle sentire in questo momento che cosa va in onda. Mattarella dice, certo, perché quello anche il vostro è servizio pubblico, dice. Accendono al Quirinale tutti e due, tutti e tre davanti al caminetto, su così la radio, e sentono caminetto. Questa creatura di Dio venuta male, Carmine da Roma. Ma quale minchia di caminetto? Tu devi sapere che io mattina mi sveglio agitato. Questo si capisce. Io tutte le mattine a 44 anni, la prima cosa che penso è a figli, perché è una cosa meravigliosa. A cosa pensa, professore? È un malato. Ma non sono malato. Ma perché deve essere malato? Ma scusa, se pensa la mattina e la sera a quella roba lì, lascialo pensare in tranquillità. Non è normale che lo dica così. Questo vuole riferire. Io un culo così. Io lavoro 13 ore al giorno. Non come a te che è un pananinchia. Io lavoro 13 ore al giorno. Faccio 30.000 chilometri ogni 4 mesi. Quindi non mi rompere i coglioni. Io mi sveglio alle 6. Non mi rompere i coglioni. Ha ragione. Lavoro, e vuole andare in Austria in tutti i locali di prostitute in Austria, lascialo andare in tutti questi locali. A me me ne frega niente, io arrivo là 4, ma vieni pure 4, tu alla marcia o no? Te ne fai 4-5 una sera?

A chi? Cretino, a chi? Cretino, a chi? David, Giuseppe, non vi chiamo se non altrimenti vi manderei a fare in culo e siccome mi siete troppo simpatici non lo faccio. Ma la volete finire con sti cazzo di gay, adozioni gay, utero in affitto? Ma avete rotto i coglioni con tutte queste cose qua? Basta, no? Giuseppe, frocio è chi ha un atteggiamento molliccio. Ci sono omosessuali froci, ci sono eterosessuali froci. Lei non è frocio, Parenzo è frocio. Buonasera. Pronto? Andrea? Sì? Sì, sei tu Andrea. Ah, che bello sentirti. Senti, io mi chiamo Lucio. Come? Io sono Lucio, Andrea. Diciamo che tu non mi conosci, io in realtà conosco te. E finalmente riesco a parlarti. Ma Lucio chi? È Lucio. Lucio. Ti dico soltanto il nome per il momento, poi magari ci vediamo. Mi piaci tanto. Io sono pazzo di te. Ma vedo che ti rompo il collo, frocio. Andrea, non devi trattarmi così. Ma vedo che ti rompo le corna. Ma perché mi dici così? Magari perché vediamoci. Stai rompino le cuglione. Io sento i brividi quando ti vedo. Sindaca, ma cerca il tesoro. Vorrei conoscerti. Ma cerca il tesoro. Oppure a qualcuno che ti rompo il collo mio. Ma possiamo vederci, Andrea? Dammi questa possibilità. Decidi tu dove e come. Quando tu dogni una giommata del cervello, non sei. Ma perché mi tratti così male? Io... Ma fatela feccare un gol, io pizzo de frocioso. Ma perché mi dici queste brutte cose? Io mi sto comportando bene, io sono pazzo di te. Mi piaci da morire. Ti rompe le corna. Ah, come sei violento. Chissà come sei a letto. Ma non te l'ha rotto le corna. Ma la vita, sai, è piena di sorprese. Magari scoprirai un universo a te sconosciuto. Andrea, dammi questa possibilità. Vedrai che poi ti piace. Andrea, ma mi senti? Vaffanculo. E beh, non sarebbe male. Vediamoci, dai. Vaffanculo. Allora, Cruciani, tu non puoi capire. In A4 mi ha appena tamponato un grandissimo. Scendo, mi tampona, eravamo in coda e niente di che, però mi tampona, scendo, vado lì pronto a smadonnare come un missile, cazzo sento che sta ascoltando anche lui la zanzara, e dico cazzo stai ascoltando la zanzara, ma tu sei un grandissimo, niente, basta, tutto passato, fa niente, un tamponata in più, un tamponata in meno, frega un cazzo, sei un grande, bomber, grande.